The Buddha says in the Pali, Loke Dukkha Dukkha Niroda. In this world there is unsatisfactoriness or suffering, and there is the end of unsatisfactoriness and suffering. Quindi il Buddha dice nelle parole Pali che ha appena pronunciato Dante che in questo mondo c'è l'insoddisfazione e la causa dell'insoddisfazione. No, there's suffering in this world and the end of suffering in this world. Sì. Quindi c'è, scusate, ripeto, in questo mondo c'è la sofferenza e c'è anche la fine della sofferenza in questo mondo. Sì. Sofferenza o insoddisfazione. And when he describes in this world, he always refers to the five aggregates. E quando lui descrive in questo mondo, si riferisce ai cinque aggregati. And these five aggregates we these days would call our psychophysical organism. Questi cinque aggregati, usando i termini di oggi, potremmo chiamarli il nostro organismo psicofisico. And yesterday, by going through dependent origination, we began to understand how we create this world. E ieri, parlando, analizzando questa catena dell'originazione dipendente, abbiamo cominciato a capire com'è che noi creiamo il nostro mondo. Mm. So, for instance, when we look at a picture, if two people are looking at a picture, are they seeing the same picture? Per esempio, se due persone stanno guardando la stessa immagine, stanno veramente guardando la stessa immagine? Mm. Supposing one is colorblind. Oh, cosa ho detto? Vedendo la stessa immagine. Stanno veramente vedendo la stessa immagine? Sì, vabbè. supposing one is colorblind. Immaginate che una delle due persone sia daltonico, mm. daltonica. Mm. So they would see two quite different pictures visually. Quindi, dal punto di vista visivo, stanno guardando due immagini in realtà diverse. Mm. But each of us has a sense base which has its own parameters. Ma ognuno di noi ha una base sensoriale che ha i propri parametri. Mm. And so, although we might agree that this color is blue, what you see as blue and what I see as blue will be in some shade different. E quindi anche se ognuno di noi vede quello che definisce blu, però in qualche modo, per qualche piccola sfumatura, il blu che vedo io e il blu che vedi tu saranno diversi. Mm. And then, having looked at the picture, we obviously have a different inner reaction to it. E poi dopo aver visto questa immagine avremo anche una reazione interna diversa. Mm. Although we can describe our reactions to each other, actually you can never know my reaction. Anche se possiamo descrivere la nostra reazione l'uno all'altro, però l'altra persona non potrà mai sapere esattamente qual è stata la mia reazione. Mm. And the thoughts I have, I can relate to you, but your interpretation of my thoughts will be different from mine. Quindi io posso parlarti dei miei pensieri, ma la tua interpretazione dei miei pensieri sarà diversa dalla mia mm. interpretazione dei miei pensieri. So, without getting too paranoid, we are living very separate lives. Quindi senza diventare troppo paranoici, però noi effettivamente stiamo vivendo delle vite separate. We live in parallel universes. Quindi noi viviamo in universi paralleli. And some not so parallel, eh? Alcuni non sono tanto paralleli. So, when we begin to understand, when we begin to, through our practice, realize that we are creating our own worlds, then of course we begin to take responsibility for it. E quindi quando noi cominciamo a renderci conto attraverso la nostra pratica che noi stiamo creando i nostri mondi, allora cominciamo anche ad assumere delle responsabilità riguardo a questo. Mm. So, for instance, it can be disappointing in a relationship. Per esempio, potrebbe essere deludente in una relazione. Mm. Whereas before you could blame the other for everything under the sun, now there's a problem. Allora, può essere deludente il fatto che se prima si poteva incolpare l'altra persona per tutto quello che succedeva sotto il sole, adesso invece è un problema. It's no longer possible to say you make me angry. Non è più possibile dire tu mi fai arrabbiare. So we begin to live in a very different world once we realize that we're the ones who are creating it. E quindi noi viviamo in un mondo molto diverso una volta che ci rendiamo conto che siamo noi a crearlo o ad averlo creato. The positive side, of course, is that now we can begin to create a beautiful world for ourselves. Ecco, dal punto di vista positivo, il lato positivo è il fatto che noi adesso possiamo cominciare a creare un bel mondo per noi stessi. The Buddha insists that he lived in a continual state of some sort of happiness. E il Buddha insisteva nel dire che lui viveva continuamente in un qualche stato di felicità. Even in that state of just plain peaceful equanimity. Anche in quello stato di equanimità pacificata. He presents us with this wonderful opportunity. E quindi lui ci presenta questa meravigliosa opportunità. So we've already worked with all the horrible stuff inside us and how to deal with it in meditation and in life. Quindi abbiamo già parlato di tutte quelle orribili cose dentro di noi e come affrontarle nella meditazione nella nostra vita. So it's time really to discuss a little bit about how we can make our internal lives beautiful. E quindi adesso vale la pena di parlare un pochino di come possiamo rendere le nostre vite interiori belle. And the Buddha talks about these 10 parami. E il Buddha parla delle 10 parami. This is one of the lists I never bothered to learn. Questa è una delle liste che non mi sono mai preoccupato di dover ricordare. Parami refers to the other shore. No, parami si riferisce all'altra sponda. And this is the way the Buddha refers to Nibbana. It's the other shore. Ed è così che il Buddha si riferisce quando parla del Nibbana, l'altra sponda. And the effects on this life, on the effect on our hearts and minds, is to create these parami. E l'effetto nei nostri cuori e nelle nostre menti è quello di creare queste parami. They're translated as perfections, but that in a sense is, I don't think it's quite right. Sono tradotte come perfezioni, ma io non credo che siano esattamente giuste. They're a sort of list of virtues which are illimitable in their development. È una lista di virtù che sono illimitabili, si può dire così, nel loro sviluppo, yeah. Cioè che non hanno limiti. I'll just read them out quickly so you know what I'm talking about. Quindi ve li leggo velocemente, così sapete di cosa sto parlando. So there's giving, generosity. Quindi c'è il donare, la generosità. Morality. La moralità. Renunciation. La rinuncia. Wisdom. Saggezza. Energy. Energia, patience, pazienza, truthfulness, e la sincerità, no? truth. Cioè dire il vero, sincerità, it's more like being truthful, being honest, più l'onestà forse più che la sincerità, resolution, which we've been practicing today, quindi la determinazione o l'impegno, che è quello che abbiamo praticato oggi, I hope. Spero. And loving kindness, metta. La gentilezza amorevole, o metta. And equanimity. E l'equanimità. These perfections are illimitable in the sense that there's no end to how much the heart can grow. Quindi queste perfezioni sono illimitabili, nel senso che appunto non c'è un limite rispetto a quanto può crescere il cuore. The heart is and the mind is a bit like numbers. Quindi il cuore, così come la mente, è un po' come i numeri. Doesn't matter how big a number you can imagine, you can always add one. Quindi può esserci un numero grandissimo, però si può sempre aggiungere uno a quel numero. So I'll just go through a few, you know, as many as I can of these in the time we have, just to give you an idea as to how you might bring it into your daily life. Quindi ne analizzerò alcuni, secondo quanto tempo abbiamo, in modo che voi possiate avere un'idea di come sviluppare queste qualità nella vostra vita. Although the Buddha makes metta the sort of basic relationship that we have with all sentient beings. Quindi anche se il Buddha indica la metta, la relazione di base che dovremmo avere con tutti gli esseri senzienti, the one that he talks about a great deal is generosity. Quella però di cui parla molto è la generosità. Mm. And generosity is both giving of our wealth and giving of our time. Quindi per generosità si intende sia il donare la nostra ricchezza, ma anche donare il nostro tempo. Mm. And there are a few conditions which makes an act of giving pure. Ci sono alcune condizioni che rende pura questa azione del dare. Mm. The first is, of course, your intention in giving. La prima è l'intenzione di dare. The second is the what's the word? The worthiness of the person who's receiving your gift. La seconda è quanto la persona che riceve il tuo dono sia degno di esso. Mm. And the third is how you came to have that rich the money in order to give. Beh, il terzo è come, in che modo tu hai ottenuto quei soldi che stai dando, che stai offrendo. He points to generosity as being something that even a thief can generate, can develop. E quindi parla della generosità come una qualità che anche un ladro può sviluppare. Yeah. Having robbed a bank, he might be very willing to offer you some help. Financially. Dopo aver rubato una banca potrebbe essere molto disponibile ad aiutarti economicamente. If you're a good friend. Se siete un buon amico. So, first of all, the gift. I mean, here we can say mainly of something that you're giving has to have a certain moral base. Quindi qui il dono, inteso come ciò che uno sta dando, offrendo, deve avere comunque una certa base morale. Mm. So, wealth that we've earned or wealth that we've inherited, if we pass it on for the benefit of somebody else, that would be very wholesome. Quindi una ricchezza che abbiamo guadagnato, che abbiamo ereditato e la offriamo a qualcuno che ne ha bisogno, beh, questo è un'azione salutare. Mm. Money that somebody has won on the lottery presents a small problem. I soldi che uno ha guadagnato alla lotteria presentano un piccolo problema. It's very hard to call it gambling. È molto difficile chiamarlo gioco d'azzardo. But it is. Ma lo è. And one gives a little amount into the pot with tremendous hopes that you'll get a lot back. Quindi quello che succede è che uno mette una piccola quantità dei soldi, gioca una piccola quantità dei soldi con grandi speranze di ottenerne molti di più. For no other reason that other people have been tremendously foolish in giving their money away. Per nessun altro motivo se non quello che altre persone sono state così stupide che hanno loro stesse dato via i loro soldi. Of course you feel at a small loss when you realize you haven't won the prize. Ovviamente uno sente di aver perso poco quando è quello che non ha vinto il premio. And it's this dream of winning the great amount which allows people to keep putting money into these lotteries. E quindi è proprio questo grande sogno di vincere grandi quantità di soldi che fa sì che le persone continuino a mettere i soldi in queste lotterie, in queste lotterie. Yes, in other words, the lottery exists because of people's greed. In altre parole, la lotteria, o sì, il gioco, esiste grazie all'avidità delle persone. Yes. Now, having won a considerable amount on the lottery, should you give it away to good causes? Allora, se uno dovesse aver vinto una grande quantità di soldi tramite una lotteria, dovrebbe questa persona darlo per una buona causa? I'm not saying all of it, of course. Non dico tutto, ovviamente. Well, I suppose you might argue, well, if you're going to give it away, you may as well give it to something that's wholesome. Uno può pensare, beh, se lo devi dare, tanto vale darlo a qualcosa di salutare, qualcosa di utile. I know that some religions, well, some forms of religions are very strict not to receive anything which has been won on a lottery. Io so che ci sono alcune religioni che sono molto severe, molto rigide su questo fatto di non ricevere soldi se sono stati vinti alla lotteria. In fact, there was a case in Britain of a Muslim who won a considerable amount of money and offered, a good amount of money to his local mosque. Effettivamente c'è stato in effetti un caso in Inghilterra di un musulmano che aveva vinto molti soldi nella lotteria e li aveva offerti una parte, una grande parte, alla moschea, dice così, locale. And they wouldn't accept it. E non l'hanno accettato. So there is there a sort of understanding that if you receive money from somebody who is playing the lottery, in a sense you may be supporting that activity. Quindi c'è questa idea sottostante che se tu hai ricevuto dei soldi da persone che le hanno perse giocando, per dire la lotteria, allora indirettamente è come se tu stessi incoraggiando questa attività. Or at least that you recognize it as being unwholesome, but you're very happy to receive the money. Oppure che tu lo riconosci come un'attività non salutare, ma sei molto felice di aver ricevuto i soldi. Which is a little insincere. Che è un po' poco sincero. So the actual what you want to give has to be, if you want the purity of the act, you see, if you want the purity of the act, what you give has to be honestly gained. Quindi se uno vuole raggiungere la purezza dell'atto di generosità, allora ciò che dona deve essere stato guadagnato onestamente. So now we come to the worthiness of the person who's receiving. Allora, adesso arriviamo a quanto la persona che riceve sia degna di ricevere. I mean, just take a simple circumstance where people give to a charity and find that the charity has been misusing their money. Prendiamo per esempio il caso di persone che stanno dando in beneficenza solo per scoprire che poi l'organizzazione che gestisce questa beneficenza la sta usando in un modo, insomma, non salutare. So it's important to know who you're giving and why who are the people you're giving the money to. Quindi è importante sapere a chi stiamo dando i soldi. But also there are people on the streets who are obviously either addicted to drugs or alcohol who come asking you for money. Ma ci sono anche persone per strada che sono ovviamente dipendenti da alcol o droghe che vengono a chiedere i soldi. And if you were to give them money, then you could probably be sure that that's what it's going to be spent on. E se doveste dare a loro dei soldi, potete essere quasi certi che andranno a spenderli proprio in quelle cose lì. Yeah. So perhaps when we're approached by such a person, we might suggest that we'll buy them a hamburger instead. Quindi può essere che quando siamo avvicinati da queste persone, o anzi quando queste persone ci avvicinano, dovremmo suggerirgli di comprargli un hamburger invece. Or a pizza. O una pizza. And if they say no, then you're pretty sure that the money was going to be used for something else. E se loro rifiutano, allora potete star certi che i soldi sarebbero stati utilizzati per qualcos'altro. So we come across circumstances where we just need to know if the person whom we're offering our money and our time to is worthy of the gift. Quindi arriviamo, ci sono delle situazioni in cui è importante sapere se la persona a cui noi stiamo offrendo i nostri soldi o anche il nostro tempo se lo meriti, praticamente sia degno di questo. And as best we can to try and just see what the results might be. E per quanto riusciamo, dovremmo cercare di vedere quali sono o quali sarebbero i risultati. So for instance there was a charity in England which collected clothes to send to Africa. Per esempio c'era un, si dice, un'organizzazione di beneficenza che ritirava abiti usati per darli, spedirli in Africa. But it ruined the local tailor trade and the local economy began to fall. Però questo arrivo di questi abiti in Africa ha intaccato il commercio della sartoria, diciamo, l'attività di sartoria di quel luogo, e quindi l'economia di questo posto in Africa ha cominciato a andare giù. And so they had to stop it. E quindi hanno dovuto interrompere questo flusso di abiti. So just the willingness to give is sometimes not quite enough. Quindi solo la disponibilità a dare a volte non è sufficiente. So now we have the problem of the giving itself from the actual donor. E quindi adesso abbiamo il problema del donare stesso dal donatore. So when we give something, there will always be the little ego, the self, which has a role to play. Quando doniamo qualcosa c'è sempre l'ego, questo sé, che ha il suo ruolo da giocare. Yes. When we give some of our wealth, or when we give some of our time, this little inner voice is saying that truly we are a very generous person. Quando noi doniamo del denaro o il nostro tempo, c'è questa piccola voce interna che ci dice sì, noi siamo una persona, sono una persona molto generosa. And sometimes when you make an offering of money, this little voice afterwards tells you too much, get some back. E a volte quando uno fa un'offerta in denaro c'è questa voce interna che dice no, è troppo, togliene un po'. So how do we overcome this little inner voice? Quindi com'è che superiamo questa voce interna? So remembering the importance of intention. Quindi ricordandoci l'importanza dell'intenzione. To phrase the intention very clearly in our minds. Quindi, come dire, mettere in parole molto chiaramente la nostra intenzione nella mente. And sometimes maybe one has to repeat it a few times so that it's coming right from the heart. A volte uno deve ripeterlo a se stesso più di una volta in modo che venga direttamente dal cuore. And then at the point when there is that clear intention in the mind, that's when one gives or one agrees to do something. Quindi quando c'è quella chiara intenzione nella mente, allora in quel momento che si dà, che si uno è d'accordo nel dare. So the voice still comes, oh how wonderful you are. Quindi la vocina arriva, oh come sei meraviglioso. But this is an old conditioning. Ma questo è un vecchio condizionamento. Ah, this was not part of the new intention, which is reinforcing our wholesome conditioning. Questa non è la nuova intenzione che rinforza il nuovo condizionamento. So it has no power, Quindi non ha nessun potere. Unless you begin to feel guilty. A meno che uno non comincia a sentirsi in colpa. If you feel guilty, then you also have to note that this is guilt and allow it to pass away. Allora uno comincia a notare, questo è senso di colpa e gli permette di andarsene. So now, the book that in, I don't know whether it says it in the scriptures, but it definitely says it in the commentaries. Quindi non so se è nelle scritture, ma sicuramente c'è nei commentari. That the generosity is in itself a path to liberation. Che la generosità è di per sé stessa un sentiero per la liberazione. And the reason is that every time you give something entirely for the benefit of the other, you are letting go of something you could have used for yourself. E questo è perché quando uno dà qualcosa completamente per il beneficio di un'altra persona, allora lascia andare qualcosa che poteva essere utile per se stesso. And so we're practicing renunciation. E quindi noi stiamo praticando la rinuncia. And this renunciation is also one of these perfections. E la rinuncia è anche una di queste perfezioni. Renunciation as a virtue is not simply practiced when you're giving. Quindi la rinuncia come virtù non è semplicemente praticata quando si sta donando. It's whenever you want to see where an attachment is, you just don't feed into it. You don't feed into the desire. E quando uno nota che c'è un attaccamento, allora è come se non nutrisse questo desiderio. Yeah. Remember, I gave the example of the coffee with the biscuit and your TV program. Ricordate che vi ho fatto quell'esempio del caffè e il biscotto e la televisione con il vostro programma preferito spenta. And just suffer letting go of that program. E quindi questo soffrire dal lasciare andare quel programma. But this way of giving and of letting go of something which we treasure for ourselves is obviously has the added benefit of developing a good heart. Ma questo donare, quindi questo lasciare andare, è qualcosa che potrebbe essere utile per noi stessi, sta anche sviluppando un'altra cosa, cioè la bontà del cuore. So remember that there are two things, both to give of our wealth and to give of our time. Ricordate che ci sono due cose, cioè il dare la nostra ricchezza in termini di soldi oppure anche in termini di tempo. Often when we're making a donation, there is time to contemplate and to get the right intention. A volte quando facciamo una donazione c'è il tempo per contemplare to contemplate our intention. Sì, e contemplare riguardo alla retta intenzione. But I think that we are very easily caught when it comes to giving time. Ma a volte è più difficile, siamo un po' più trattenuti quando si tratta di offrire del tempo. If somebody says, "Can you come and help me?" Sometimes we're very quick with, "Oh yes, I can. Yes, of course." Quando qualcuno ci chiede, "Ah, vieni a darmi una mano?" A volte siamo molto veloci nel rispondere, "Sì, certo, naturalmente." And then afterwards you think, "No, I don't want to do that." E dopo uno pensa, "Oh, ma io non ho voglia di farlo." And if you had given yourself a little time, you would have been able either to make a proper intention or to have said, "Well, you know, I can't do it at this time." E se vi foste dati un pochino più di tempo per pensarci, allora potevate scegliere tra o esprimere un'intenzione più sincera oppure rispondere, "No, in realtà non ho questa volta non posso." Non posso fare, yeah. So sometimes we get ourselves into these unfortunate situations because we've responded too quickly. A volte ci troviamo in queste situazioni sfortunate, insomma un po' imbarazzanti, perché abbiamo risposto troppo velocemente. And we have to train ourselves just to say, "Do you mind if I think about it?" E quindi dobbiamo allenarci un po' a imparare a rispondere, devo pensarci un attimo. Yeah. I'm not saying that the normal transaction of gifts in society, I don't think the Buddha is saying that that is unwholesome. Quindi non credo, così come non credo che il Buddha dicesse che il normale scambiarsi di doni nella nostra società non sia salutare. So at Christmas, somebody gives you some cheese and you give them a bottle of wine, say no. Quindi a Natale una persona magari vi dà del formaggio e voi gli offrite una bottiglia di vino e dite no. That sort of social interaction, birthdays, anniversaries and all that, that is all to do with just ordinary human relations. E quindi questo scambiarsi doni per un compleanno, un anniversario, eccetera, fa parte di queste normali relazioni che ci sono nella società. And one can sometimes see that one is given a gift with the presumption that you will get similar. E uno può notare come una persona viene dato un regalo supponendo poi di riceverne uno simile. Yeah, so if you don't get your cheese, it's very upsetting. E quindi se non ti danno, se tu non ricevi il formaggio che tu hai regalato, allora questo ti disturba un po'. Yeah, people get very upset even if they don't receive a card. Alcune persone si agitano, sono molto dispiaciute anche se non ricevono una cartolina. So these things we say are just normal human interactions. Queste cose sono normali interazioni umane. But even these we can actually change into acts of generosity. Ma anche queste noi possiamo cambiarle in atti di generosità. Mm. And there is a connection between generosity and gratitude. C'è un collegamento tra la generosità e la gratitudine. Mm. When we, if we contemplate how much we've received in our lives, it makes it easier for us to give. Se noi contempliamo riguardo a quanto noi abbiamo ricevuto nella nostra vita, allora questo rende più facile il donare. Mm. We, because of our modern society, we tend to forget that our education, for instance, is dependent on other people's taxes. Nella nostra società moderna spesso ci dimentichiamo che la nostra istruzione dipende anche dalle tasse di altre persone. The expenditure in Britain on the National Health Service is £90 billion a year. Allora, la spesa sul servizio sanitario in Gran Bretagna è di 90 miliardi di sterline all'anno. And 90% of that amount is spent on 1% of the population. E il 90% di quella quantità è spesa sull'1% della popolazione. Mm. So every time we go to the doctor or dentist or whatever, if that's on the national health. Then that service is given to us because other people are happy to pay taxes. E quindi ogni volta che andiamo da un medico, da un dentista che fa parte ovviamente del sistema sanitario, allora dovremmo tenere a mente che questo è possibile grazie a tutte queste persone che sono disponibili a pagare delle tasse per un servizio che non usano. Yeah, I mean, and it's, I think it's a bit, what can we say? It's a bit unworthy to be cynical about it. E quindi mi sembra che non sia molto, come dire, unworthy, non è degno, insomma, non è saggio essere cinici a questo riguardo. Mm. Thinking that, well, people give the taxes because they're covering the possibility of their own falling to ill health. Quindi pensare, beh sì, le persone propagano le tasse perché questo coprirebbe l'eventualità che loro avessero dei problemi di salute. Mm. And the more we actually begin to contemplate how much we receive from society, from family, from friends, etc., etc., the easier it is to generate this sense of generosity. Quindi più riusciamo a contemplare su tutto quello che noi riceviamo dalla società, dalla famiglia, dagli amici, e più sarà facile sviluppare questo senso di voler dare a nostra volta. Mm. And it's even though we've said that we create our own worlds, we are also of course in connection with the world. Quindi anche se noi abbiamo detto che stiamo creando i nostri mondi, è anche vero che noi però siamo in contatto con il mondo. Mm. So that when we perform an act, there are two waves of energy, or two waves of conditioning energy. Quando noi facciamo un'azione, ci sono due onde di energia che si condizionano vicenda. Mm. The one is inward into our psychology. Quindi una è verso l'interno, verso la nostra psicologia. And this is our internal conditioning. E questo è il nostro condizionamento interno. And this is what's going to determine our this inner atmosphere of happiness or lack of it. Ed è questo che determina la nostra atmosfera interiore di felicità o di mancanza, di assenza di felicità. On the other side, the act goes out into the world as a wave, as an energy. E d'altra parte questa azione esce, diciamo, nel mondo come una energia. Mm. And this of course affects the world. E questo influisce sul mondo. Mm. I'm sure you all know this, the theory of chaos, the chaos theory. Sono sicuro che tutti voi conoscete la teoria del caos. Yes? No? Yeah. No, no. it's a theory which says that the smallest beginnings with supporting conditions can grow exponentially. Allora, è una teoria che dice che anche il più piccolo inizio, se è sostenuto dalle giuste condizioni, può crescere in maniera esponenziale. So the example that they give in the book I read was a butterfly wing with supporting condition can end up as a hurricane in another part of the world. E quindi l'esempio che facevano in questo libro che ho letto è che solo uno sbattere di ali di una farfalla con le condizioni giuste può risultare in un uragano da un'altra parte del mondo. Mm. And it's a shame that the writer takes such a negative example. Mm. È un peccato che l'autore però scegliesse questo esempio così negativo. Mm. He might have also said that a smallest act of kindness could put an end to the Middle East crisis. Poteva anche usare un altro esempio e dire che un piccolo gesto di gentilezza poteva porre fine al conflitto nel Medio Oriente, per esempio. So the law of karma says whatever is wholesome will produce wholesome results, and whatever is unwholesome produces unwholesome results. Quindi la legge del karma dice che ciò che è salutare produrrà effetti salutari, ciò che non è salutare produrrà effetti non salutari. And this is true both outwardly and inwardly. E questo è vero sia verso l'esterno sia verso l'interno. But remember, you don't know what the comeback will be from something you do from the outside. Come back from the outside, you don't know what it will be. Ricordate che però voi non sapete quale può essere il ritorno di una vostra azione che proviene dall'esterno. Mm. So we have examples from a recent history of people who've done good but have ended up unfortunate. I mean, Gandhi, for instance. Mm, però abbiamo degli esempi dalla storia recente di persone che hanno fatto del bene però poi sono finite male, come Gandhi, per esempio. So you don't know what will come back to you, but we can hope that it will be beneficial. Quindi non si può sapere cosa ci ritornerà indietro, però possiamo sperare che sia di beneficio. Mm. So there we have this little trilogy of virtue. Quindi abbiamo questa trilogia di virtù. From contemplating the benefits that we've received. Raises our gratitude. Quindi contemplando i benefici che abbiamo ricevuto, questo aumenta la nostra gratitudine. And this allows us to be much easier with giving. E questo ci permette di dare con maggior facilità. Mm. And in the giving we're practicing renunciation. E attraverso il donare stiamo esercitando la rinuncia. And remember, renunciation is the destruction of attachment. E ricordate che la rinuncia è la distruzione dell'attaccamento. Oh, this itself is a path to liberation. Quindi questo stesso è un sentiero per la liberazione. Mm. So we can see here why the Buddha really liked to teach a lot about dharma. E quindi vedete perché al Buddha piaceva, insomma, insisteva su questo fatto del dana. Mm. Dava questi insegnamenti sul dana. So just to go rather quickly through the others, when it's going on. Quindi per andare rapidamente, scorrere rapidamente gli altri. Morality here tends to refer to the five precepts that we chant in the morning. Quindi la moralità qui si riferisce ai cinque precetti, quelli che recitiamo al mattino. Mm, but these precepts can always be turned into their positive expression. Questi precetti possono essere trasformati nel loro opposto positivo, non nel loro opposto, nel loro corrispondente positivo. Yeah, so to harm living beings is also the positive side is to protect. Quindi quello di non fare del male agli esseri viventi, messo in termini positivi, può essere di proteggere gli esseri viventi. Mm. So I think Thich Nhat Hanh puts a lovely his precepts. What does he call them? The five marvelous precepts. Thich Nhat Hanh ha un modo molto positivo di illustrare i precetti, li chiama i cinque meravigliosi, no, precepts, addestramenti. Trainings, yeah, that's true. Mm. We've done renunciation. Wisdom is, of course, what we are developing through the meditation. Ecco, la saggezza è ciò che stiamo sviluppando attraverso la meditazione. And the perfection of that wisdom is, of course, the destruction of the concept of the self. E la perfezione di quella saggezza è naturalmente la distruzione del concetto di sé. Mm. Remember, it's from this concept of who I am that all these troubles arise in the first place. È da questo concetto del chi sono io che nascono tutti i problemi. Mm. So this is pointing to the characteristic of anatta, not self. E quindi questo appunto indica il principio di anatta, cioè non sé. And remember that the idea of self is both a concept and a feeling. E tenete presente che questa idea del sé è sia un concetto che una sensazione. Mm, it's that sense of presence. È questo senso di presenza. Yeah, does that make? Yeah. No. Sì, yes. No? Ha un senso questo. In your meditation, when you're at that point of just being an observer, just being the knower. Quindi quando siete a quel punto della vostra meditazione dove siete l'osservatore o chi conosce. Mm. Is there not also a feeling of being the feeler? Non c'è anche una sensazione di essere chi sente? Colui o colei che sente. So there's two parts to this feeling of a self. There's both the idea and that sense of feeling, that sense of presence. Quindi ci sono due parti in questa idea del sé. C'è appunto il concetto, l'idea, e poi c'è anche questa sensazione, questo senso. Questo senso della presenza. Mm. And normally speaking, people would point to this as their soul, you see. E parlando in termini normali, le persone indicano questo come l'anima. Mm. Parlano di questo come dell'anima. So when these two things are finally annihilated, the Buddha actually uses the word annihilated, then all the problems disappear. Quando queste due cose sono eliminate, o il Buddha usa il proprio termine annichilite, allora ecco che tutti i problemi sono risolti. Mm. And working with our virtues, such as generosity, and working against the unwholesome qualities, this is constantly undermining this sense of I. E quindi lavorare per sviluppare queste virtù e per superare le azioni non salutari, allora questa cosa combinata va a intaccare alla radice proprio questo senso del sé. Mm. It's like you're constantly cutting the flowers and taking the leaves off and the branches, but the root is still coming up with the stuff. E quindi è come se voi tagliaste continuamente i fiori, le foglie o il fusto, però la radice è sempre lì e quindi butta sempre fuori. Mm. But if you keep doing that, the roots eventually die, eh? Ma se voi continuate a farlo, prima o poi anche le radici muoiono. Is it true? È così? I'm not a gardener. Non sono un giardiniere. Energy. So here, energy is, exactly the opposite of this dullness and lethargy that we've all been experiencing. Allora, l'altro fattore quindi è l'energia. E l'energia è esattamente il contrario di questo stato letargico di intorpidimento che abbiamo sperimentato in questi giorni. So it's remember, it's the energy which is not trying to achieve some selfish aim as well. È l'energia che non ci spinge a cercare un obiettivo, di raggiungere qualcosa. Now the next one, it relates directly to how the self actually operates. Allora, quello dopo si riferisce a come il sé effettivamente opera. And that's the virtue of patience. Ed è la virtù della pazienza. The Buddha calls patience the highest form of ascetic practice. Il Buddha chiama la pazienza la forma più alta di pratica ascetica. Being able to bear what is not pleasant. Quindi questo essere capace di sopportare ciò che non è piacevole. In his day they might sit in front of a fire in, you know, 40 degrees. Ai suoi giorni si trattava magari di stare seduti davanti a un fuoco a 40 gradi Or stand in the Ganges thinking that the water was washing away their karma. Oppure stare in piedi nel Gange pensando che l'acqua li avrebbe ripuliti del loro karma, e lo fanno ancora. And you still get ascetics in India with their withered arm up in the air. They've kept their arm up there all the time. It's withered, yeah? It's locked. Si trovano ancora degli asceti in India che tengono il braccio alzato, bloccato praticamente in quella posizione. And it's withered, it's dying, it's definitely withered. Yeah, well, the muscles all go and everything. E quindi è come rinsecchito, praticamente a forza di stare in quella posizione i muscoli si rattrappiscono, come se fosse un... All these are ascetic practices. Sono tutte pratiche ascetiche. Yeah, like you know, very very long hard fasts and things like that. Anche come dei lunghi digiuni, cose di questo genere. So the Buddha found this, of course, not on the path. Il Buddha questo lo considerava non sul sentiero. And just more suffering. Erano pratiche che creavano solo più sofferenza. A waste of time, eh? Quindi una perdita di tempo. But then he says, developing this patience is the highest form of ascetic practice. Però poi dice che sviluppare questa pazienza è la forma più alta di pratica ascetica. And in our sitting, when you know all these painful mental states and physical states come up. Being able to bear patiently with them is developing this patience. E quindi quando siamo seduti e dobbiamo affrontare tutti questi dolori fisici e mentali, allora questo sta sviluppando questa pazienza. Quindi sopportandoli con pazienza sviluppa proprio questa pratica ascetica. And in our daily life, when things don't go right for us, we lose our work. The relationship doesn't work out, all sorts of things, to be able to bear that patiently. E quindi anche nella nostra vita quotidiana, quando perdiamo il lavoro oppure c'è una relazione difficile, tutte queste cose, allora il fatto di riuscire a sopportarle con pazienza, anche questo. See? So in daily life, whenever we find something is not as we expected it to be able to bear with that without getting angry, frustrated and all that, that's developing patience. Quindi nella nostra vita quando le cose non vanno come noi vorremmo, allora anziché arrabbiarci o diventare frustrati, se riusciamo a sopportarle, allora stiamo sviluppando la pazienza. Patience endurance does not mean that we have to become a victim, eh? Quindi la pazienza, la resistenza non vuol dire che dobbiamo diventare delle vittime. This would be a big mistake, you see. Ma questo sarebbe un grande errore. One patience endurance accepts the situation as it is. Quindi questa pazienza o la resistenza significa accettare la situazione così com'è. And then once one tries to do something about it in a positive way. Poi uno cerca di fare qualcosa, di prendere un'azione in un senso positivo, in un modo positivo. If not, then we fall into the error of resignation. altrimenti poi cadiamo nell'errore della rassegnazione. And the person who is bullying us, or the situation which is very negative, overwhelms us. E poi allora la persona che ci sta maltrattando o what was the second? A situation which is negative towards us. Sì, oppure una qualsiasi situazione che è negativa nei nostri confronti, allora è come se ci sovrastasse. Mm. So patience doesn't mean that we make ourselves victims. It's important. Quindi la, questa pazienza non vuol dire che noi ci mettiamo nella posizione di essere delle vittime. Mm. Questo è importante. The next one is truthfulness. E quella dopo allora è questa onestà. And I think this is basically about in this particular understanding. It's basically about you know, keeping one's word. E qui in questo contesto si riferisce al mantenere la propria parola, mm-hmm. essere fedele alla propria parola. Yes, if you make a vow, if you say you'll do something, then we do our best to complete that. Quindi se fate un voto oppure una promessa e dite che farete una cosa, allora è giusto mantenere ciò che dite, mm-hmm. ciò che avete, vi siete impegnati a fare. Yeah. But it also comes into speech in the sense of being careful not to exaggerate. Ma si riflette anche però sul linguaggio, cioè nel fare attenzione a non esagerare. Mm. Although exaggeration is not lying, it's not quite the truth. Mm. Anche se esagerare non equivale al mentire, però non è esattamente, non corrisponde esattamente alla verità. Mm. Winston Churchill called lies to be economical with the truth. Winston Churchill diceva che le bugie erano economical in the sense of, economiche alla verità, cioè funzionali alla verità. Then there of course is resolution. E poi c'è questa determinazione, questo impegno. Now the important thing about resolution is to understand that more often than not we will fail. E quindi la cosa importante da capire rispetto all'impegno è che molto spesso c'è la possibilità di fallire. Maybe we've resolved too much. Forse ci siamo presi un impegno troppo grande. Or it's just that every so often we fail to complete the resolution. Oppure il fatto che ogni tanto non riusciamo a, come dire, a soddisfare questo impegno. Mm. Yeah, that's good. So for instance, when the Buddha a rispettare l'impegno che abbiamo preso. Ah. So for instance, when the Buddha sat under that tree and said he would not move either until he was fully liberated or dead, this was a big resolution. E quindi quando il Buddha si è seduto sotto l'albero della Bodhi e si è preso questo impegno di non alzarsi fino a quando o non si fosse liberato o non fosse morto, beh, questo era un grande impegno. Mm. So sometimes we overreach ourselves. Quindi a volte noi è come se ci ponessimo degli obiettivi troppo alti, delle aspettative troppo alte. Mm. In which case, wisdom brings us back to some real attainable resolution. E in questo caso è la saggezza che ci riporta a degli obiettivi raggiungibili, mm. realistici. But sometimes it is because we're either lazy and so on and so forth. Ma a volte il motivo è che siamo pigri o qualcosa di questo genere. Mm. In which case we have to accept that, you see. In questo caso dobbiamo accettarlo. And then you have to, as it were, re-establish the same determination. E poi dobbiamo in un certo senso ristabilire la stessa intenzione. Mm. So the spiritual in all walks of life, but especially in the spiritual life, it's a case of pick yourself up, dust yourself off and start all over again. Quindi nel caso della vita spirituale, ma anche in altri casi, si tratta di tirarsi su, togliersi un po' di polvere e ricominciare. Mm. Like Fred Astaire in Ginger Rogers. I can't remember the film. Come Fred Astaire in Ginger Rogers in un film di cui non si ricorda il nome. Pick yourself up, dust yourself off, start all over again. So we have to do that, yeah? Sì, dobbiamo fare così. Loving kindness, I'll say something about that tomorrow when we actually practice it. Quindi sulla gentilezza amorevole dirò qualcosa domani quando faremo effettivamente la pratica. And finally, there's equanimity, which we've talked about quite a bit over the week. Yeah? E poi c'è l'equanimità di cui abbiamo parlato abbastanza durante la settimana. But I'd like to read out this little passage, which is from the commentaries. Però vorrei leggervi questo brano, questo passaggio, insomma, dai commentari. As the great being, maybe complete the sentence. Yes, it should have been. As great beings are concerned with the welfare of all living beings. Così come i grandi esseri sono interessati al benessere di tutti gli esseri. Not tolerating the suffering of beings. E non tollerano la sofferenza degli esseri. Wishing long duration to the higher states of happiness. E auspicano una lunga durata negli stati di felicità. And being impartial and just to all beings. Sono imparziali e giusti rispetto a tutti gli esseri. They give alms. Loro danno offerte. To all beings so they may be happy. A tutti gli esseri in modo che possano essere felici. And here it says, without investigating whether they are worthy or not. E qui dice senza investigare, senza assicurarsi che ne siano degni oppure no. In the scriptures the Buddha says you should investigate. Però nelle scritture il Buddha dice no, è bene assicurarsi che lo siano degni. By avoiding to do them any harm. Quindi evitando di far loro del male. They observe morality. Osservano la moralità. In order to bring morality to perfection, they train themselves in renunciation. Per portare la moralità alla perfezione, loro si allenano, si addestrano alla rinuncia. That's the renunciation, of course, of not doing something to let go of the attachment. È la rinuncia in termini di non fare qualcosa per lasciare andare l'attaccamento. In order to understand clearly what is beneficial and injurious to beings. Per capire chiaramente quello che è di beneficio e che possa durare per gli esseri. They purify their wisdom. Purificano la loro saggezza. For the sake of the welfare and happiness of others, they constantly exert their energy. Per il benessere e la felicità degli altri, costantemente esercitano la loro energia. Though having become heroes through utmost energy, they are nevertheless full of patience towards the manifold failings of beings. Quindi, anche se sono diventati degli eroi grazie a questa energia, they are nevertheless full of patience. Sono comunque pieni di pazienza. Towards the manifold failings of beings. Nei confronti delle innumerevoli limiti, innumerevoli limiti degli esseri. Once they have promised to give or do something, they do not break their promise. Una volta che hanno promesso di dare o di fare qualcosa, non rompono mai la loro promessa. With unshakable resolution, they work for the weal and welfare of beings. For the weal? The welfare. The wealth. Yes, the wealth. We are. They work for the it's another word of saying the goodness. Okay. For the goodness. Can you just repeat the whole thing? Yeah. With unshakable resolution, they work for the goodness and welfare of beings. Quindi con questo impegno resoluto, lavorano per la bontà e il benessere degli esseri. With unshakable kindness they are helpful to all. Con una gentilezza incrollabile sono di aiuto a tutti. And by reason of their equanimity they do not expect anything in return. E grazie alla loro equanimità non si aspettano nulla in cambio. There we are. Salve. So I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. That by translating the wisdom that you've gained this week. Che voi possiate utilizzare la saggezza sviluppata in questa settimana into your daily life, quindi la possiate portare nella vostra vita quotidiana for the benefit of all beings, a beneficio di tutti gli esseri, which includes ourselves, e questo comprende anche noi stessi, that you finally attain that glorious end, Nirvana. Che voi possiate infine raggiungere quel fine glorioso che è il Nibbana. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Very good. So do continue. Our great effort doesn't finish till afternoon tomorrow. Quindi continuate, il nostro grande sforzo non termina fino a domani pomeriggio.